sopra i muri con le donne che gli stanno vicino. A te, at the drive. Guardavi solo me mentre cantavi Chinatown. L'orchestra ripeteva Shibidoo. Mi resta solo un disco per tornare giù da te. A the drive. Di nuovo mercoledì, di nuovo Now Boarding, di nuovo Radio Sandona sui 102 e 200 o sul web www.radiosandona.it. Sul nostro blog nowboardingrsd.wordpress.com trovate il podcast per ascoltarvi la puntata quando più vi aggrada. Puntata insolita questa, puntata dedicata allo scambio di coppia. Perché? Lorenzo, beh, spiegalo tu. Allora stavolta sono io in Skype, mentre l'ospite che è stato all'estero è in studio, quindi ci siamo fatti uno scambio interculturale, ecco. Ti dico che io non sono all'estero però. Ah ecco, ti dico che ti ha già rubato il posto, sei seduto nel tuo solito posto, Perfetto, hai trovato il tuo nuovo compare. Sì, infatti. Lorenzo è bloccato, possiamo dirlo, dove stai? Sì, ditelo, tanto non ho i problemi di Osama Bin Laden io. Ah ecco, Lorenzo è bloccato a Como e noi invece in studio abbiamo Enrico. Questa è una puntata per la quale ci spostiamo oltreoceano, infatti siamo in Canada e precisamente ad Ottawa. Ciao Enrico. Ciao a tutti. Ottawa è la pronuncia giusta, vero? Sì, abbastanza. Abbastanza? Cosa vuol dire? Nel senso che lì la chiamano Ottawa. Ah, ok. E Toronto è Toronto e cose del genere, quindi... Hai capito, Lorenzo? Sì, si dice Ottawa. Ottawa. Ok. Come va, Enrico? Tutto bene. Grazie. Bene. Sì. Quindi, insomma, Ottawa... Dai, chiedi due cose tu, Lorenzo. Beh, allora, tu... Hai fatto un primo periodo, in realtà sei stato sia in Canada che in Australia per fare due dottorati diversi, giusto? Ho fatto il dottorato a Padova e durante questi tre anni di dottorato ho avuto l'opportunità di andare come visitatore in Canada e in Australia, però sempre sotto l'Università di Padova, quindi non sono due dottorati diversi. Certo. Ah, quindi era tutto, diciamo, inerente allo stesso progetto di ricerca. Esatto. Se tu cambiavi location, ecco. Esatto, il mio prof di Padova ha queste due grosse collaborazioni e quindi mi ha mandato un'estate in Canada e un'estate in Australia. Bene, direi che ti è andata bene, no? Sì, assolutamente. Bene, e quindi noi siamo qui ad approfondire la parte relativa al Canada e appunto a capire come ti sei organizzato e cosa facevi là e quali sono le opportunità che si trovano in Canada, insomma, anche nel tuo campo e anche in altri campi magari. E quindi tu sei arrivato là e eri già convenzionato per trovare appartamento o qualcosa o ti sei dovuto arrangiare? Allora, essenzialmente mi sono arrangiato, nel senso che io avevo un accordo col prof canadese che mi avrebbe dato un rimborso spese mensile di qualche centinaio di dollari con cui io poi mi sarei pagato l'appartamento lì, però me lo sono cercato da solo e il metodo più veloce è stato Craigslist, quindi il sito di annunci che c'è in tutto il mondo. E il problema è che la fregatura è dietro l'angolo, nel senso che tu ti metti d'accordo via email con dei privati per prendere una stanza e quello è stato il primo grosso scoglio. Sono stato fortunato che avendo il prof canadese disponibilissimo è andato lui a vedere, a verificare se la casa esisteva, se le foto che mi aveva mandato erano vere e è anche andato a parlare con i proprietari di casa. Una comodità, non indifferente. Sì, infatti è andato perfetto, poi queste persone, i proprietari di casa, gentilissimi, mi hanno spedito a loro spese tra l'altro il contratto di affitto già firmato da loro, quindi io poi l'ho firmato, gliel'ho mandato in PDF e una volta arrivato in aeroporto sono anche venuti a prendermi. No, da quel punto di vista è andato benissimo. Ah, però sono proprio gentili, insomma. Sì, ma tutta la popolazione canadese, almeno quella con cui ho avuto a che fare io, sono persone disponibilissime, si spaccano in quattro pur di darti una mano, almeno questo è quello che ho potuto sperimentare io, insomma. Cosa sei andato a fare di preciso? Se tu stai facendo un dottorato, in che ambito? Allora, io ho fatto dottorato in scienza e ingegneria dei materiali a Padova e ho lavorato su materiali per sensori di gas di tipo ottico. Adesso mm-hmm. non scendiamo nei dettagli, comunque. Anche perché io e Lorenzo non capiremo niente. In Canada c'è l'equivalente del CNR italiano, quindi un centro di ricerca governativo statale, e in particolare è stato nei laboratori dell'Istituto per il monitoraggio ambientale e l'inquinamento. E c'è questo professore che aveva questo setup sperimentale per fare test in diverse atmosfere con diversi gas sui vari campioni, i vari sensori che avevo preparato io a Padova. Quindi sono partito con il mio sacchettino di campioncini e ho passato questi 4 mesi a testare, vedere se effettivamente funzionavano o non funzionavano, come funzionavano, eccetera. Immagino il controllo all'aeroporto quando devi mostrare i liquidi. No, no, era tutto, alla fine sono tutti solidi e sono tutti dei pezzettini di vetro, alla fine, perché il substrato era un pezzettino di vetro di 2 cm per 2 di lato. Quindi alla fine li ho messi in un raccoglitore di francobolli di mio papà ed era praticamente un libricino con 4 pagine, 5 pagine con tutti questi quadratini dentro, quindi zero problemi in aeroporto. Ah, ok, interessante. Io ti volevo chiedere, cioè, quanto è stato importante per te andare all'estero piuttosto che fare ricerca in Italia? Cioè, nel senso, se il tuo professore ti avesse detto io lo stesso tipo di collaborazione ce l'ho a Milano, ci saresti andato comunque o magari con un po' meno entusiasmo forse? Allora, ci sarei andato comunque, direi di sì, perché comunque fare esperienza in ambienti diversi, laboratori diversi, conoscere persone diverse è sempre un più a seconda, cioè non importa che poi siano persone italiane o straniere. E sicuramente l'avrei fatto con meno entusiasmo, nel senso che io quando ho deciso di fare il dottorato con questo prof, era il prof con cui ho fatto la tesi, sapevo che aveva questa collaborazione, avevamo già parlato che c'era la possibilità di andare all'estero e per me è stata la prima vera esperienza non di vacanza al di fuori dell'Italia, meno che non ho fatto Erasmus durante l'università, eccetera. E mi è servita molto per imparare l'inglese e diciamo sapermi rapportare con persone con culture diverse e esperienze diverse e cose che magari probabilmente non avrei potuto fare se fossi andato, come dici tu, a Milano, eccetera. Quindi da questo punto di vista sicuramente importantissima come esperienza, però non dico che non sarei andato in Italia, anzi. Quindi magari dal punto di vista professionale forse il luogo conta meno, dal punto di vista però personale dell'esperienza spostarti all'estero o comunque in uno stato piuttosto che in un altro fa la differenza. Quello vabbè, sicuramente. E poi chiaramente questo posto dove sono stato, questo centro di ricerca, era avanzatissimo e bellissimo, quindi anche, chiaramente anche dal punto di vista professionale è stata un'esperienza formativa e molto importante. Però diciamo che, visto che era anche il primo dei sì, viaggi che ho fatto, dimmi. Lorenzo ha un ritardo di circa 10 minuti. Sì. Ok. Me ne sono accorto adesso perché ho detto un sì e ho sentito voi rispondere tipo dopo 30 secondi più o meno. Però adesso ti sentiamo abbastanza allineato. Bene, no, io niente, avevo una domanda per Enrico. Cioè, dimmi. Vabbè, a parte che comunque come esperienza personale sicuramente fare un dottorato all'estero è abbastanza eccitante, però appunto riguardo alle apparecchiature e tutto penso che magari il fatto di operare in diverse università dell'estero ti desse l'opportunità di avere delle apparecchiature di stampo diverso e magari anche molto avanzate che non c'erano qua, no? Questo è vero sicuramente, difatti diciamo tutte le collaborazioni, la maggior parte che si fanno tra diversi laboratori si fanno essenzialmente per poter sfruttare le conoscenze diverse che hanno i vari laboratori e i macchinari, le strumentazioni diverse, perché se io andassi in un laboratorio che ha la stessa esperienza che abbiamo noi dal punto di vista dei materiali e gli stessi macchinari non avrebbe molto senso, perché le cose potrei farmele a Padova. Quindi da questo punto di vista è verissimo, tu vai in un altro laboratorio, in un altro paese anche, perché hanno conoscenze, apparecchiature diverse e che possono, diciamo, dare, completare quello che tu hai fatto e dare un vantaggio a entrambi i laboratori essenzialmente. E a proposito di laboratori, tu così ci raccontavi che c'era una canzone che ascoltavi spesso in laboratorio, no? Tra l'altro questa puntata sarà una puntata molto rock and roll dalla selezione che ci hai fatto. Quindi se qualcuno non piace la selezione di questa puntata, si vada ad ascoltare la precedente di HN e troverà musica per le sue orecchie. Aveva dei gusti particolarmente diversi la precedente puntata. Okay. Diciamo che cerchiamo di accontentare tutti, ecco. Esatto. Diciamo che io sono stato anche abbastanza buono con la scelta delle canzoni, so che ho scelto le canzoni che potessero andare tranquillamente in radio. Di solito Enrico ascolta dei pezzi in cui le distorsioni sono superiori al riconoscimento delle note, quindi... Beh, dai, il primo pezzo non è proprio questo caso. Sono gli Ark con Feed the Fire, giusto? Sì, esatto. Scelti come mai? Perché Burn the Sun, che è l'album da cui tratta questa canzone, è uno dei miei album preferiti ed era la colonna sonora delle mie lunghe giornate in laboratorio, o una delle colonne sonore che ascoltavo, quindi... Quindi con questo ci immaginiamo di entrare in laboratorio con te, esatto. Insomma. Andiamo a sentirci gli Ark. Snowboarding, puntata dedicata a Canada, Ottawa, in cui Enrico ha fatto un dottorato, o meglio, ha proseguito un dottorato che ha iniziato all'Università di Padova. Dunque, Enrico, spiegaci bene come sono organizzate le università là in Canada, e specialmente la tua, e se ti hanno permesso appunto di realizzare i tuoi obiettivi che ti eri prefissato appunto prima di arrivare là. Ok, allora, c'è da dire che io non sono stato in una università lì, ma era un centro di ricerca. Quindi era proprio un centro di ricerca slegato, quindi. Esatto, è il National Research Council, quindi è centro di ricerca nazionale. Quindi non c'erano studenti, non c'erano aule, eccetera, erano solo laboratori, laboratori e uffici. E quindi non posso fare un paragone con l'Università di Padova, però posso sicuramente dire che tutte le aspettative che avevo sono state mantenute, nel senso che sono arrivato lì, ho trovato il laboratorio, il mio ufficio, la mia stanza, il mio computer, eccetera, e gli strumenti che avevo a disposizione erano esattamente quelli che mi aspettavo, o comunque quelli con cui sono riuscito a fare le cose che mi ero prefisso. Quindi da quel punto di vista è andato molto molto bene. C'è da dire che sono estremamente fiscali con la sicurezza, è giusto che sia così perché alla fine lavoro con prodotti chimici e tutto il resto, però ho dovuto fare un corso di 3 giorni al computer, cioè ho passato 3 giornate davanti al computer a rispondere a dei questionari, a fare dei test, e finché non facevi l'85% mi pare di risposte corrette non potevi passare al successivo. Quindi finché tu non superavi questo test non potevi poi accedere ai laboratori, cioè tu dovevi acquisire delle conoscenze tecniche che ti permettessero di reagire in caso di emergenza. Esatto, c'era da incidenti a persone che si fanno male, a perdite di prodotti chimici, a movimentare barili di prodotti chimici col muletto, cosa che chiaramente non ho mai fatto, però era un corso che era fatto per tutti i dipendenti di questo centro e purtroppo andava fatto, però alla fine sì, è meglio che sia così piuttosto che non ti dicano niente e che poi in caso di emergenza tu non sai cosa fare. Sì, beh, in effetti comunque voglio dire, essere eccessivamente cauti non è un male. No, no, infatti. All'ultimo livello c'era il mostro finale. C'era una provetta gigante che esplodeva. E quindi non puoi fare un confronto con l'università, essendo stato in un centro di ricerca, puoi farlo invece con la ricerca italiana. Se spesso c'è un po' questa cosa, c'è sempre in Italia non si fa ricerca, oppure si fa a livelli troppo bassi, che magari è anche un'affermazione stereotipata o comunque banale. Allora, questo è verissimo. Verissimo quello che hai detto tu, nel senso che è stereotipata, perché io ho avuto l'opportunità di andare sia in Canada che in Australia, e in entrambi i laboratori ho visto strumentazione di alto livello, gente in gamba, ma diciamo tantissima gente che era in questi laboratori era straniera, e c'erano anche tanti italiani, o c'erano stati. Quindi gli italiani sono comunque ben visti e ben voluti, molto ben voluti all'estero, perché sanno fare ricerca. E sanno fare ricerca perché qualcuno gliel'ha insegnato, non è perché sono nati così. Quindi vuol dire che l'università italiana, per quanto disgraziata possa essere, comunque forma delle persone con delle competenze notevoli e che sono molto apprezzate. In più il fatto di avere spesso, io parlo dal punto di vista scientifico, laboratori con attrezzature vecchie o scarse, ti insegna un po' l'arte di sapersi arrangiare. Quindi c'è gente che studia, lavora in laboratori allo stato dell'arte con strumentazioni avanzatissime eccetera, che è abituata a vivere nella bambagia, come si dice. Noi, io o i miei colleghi a Padova, che lavoriamo con quel poco che abbiamo, ci sappiamo arrangiare, quindi in caso di difficoltà sappiamo benissimo come tirar fuori qualcosa, e questo è, diciamo, è molto ben visto all'estero. Quindi da qui a dire che la ricerca italiana non forma, che comunque secondo me è sbagliatissimo. Io senza gli anni che ho fatto a Padova adesso non saprei in grado di, cioè, non potrei far niente. Quindi scusa Enrico, ti faccio una domanda. Sì. Come molti italiani vanno in centri di ricerca esteri a magari fare dottorati o anche semplicemente a svolgere il loro ruolo di ricerca, c'è anche un flusso paritario di studenti dall'estero che magari viene in Italia nei nostri centri di ricerca? Oppure diciamo l'andamento ti sembra un po' a senso unico? Allora, sicuramente è più l'italiano che si sposta all'estero. Però, per esempio, adesso nel mio laboratorio abbiamo avuto fino a un mese fa un giapponese, adesso ce n'è un altro giapponese che sta qui un altro anno, abbiamo 2 indiani, abbiamo un peruviano, ci sono stati messicani, c'è stata parecchia gente che è arrivata. E questo grazie al fatto che i nostri prof hanno delle collaborazioni internazionali. E però, insomma, c'è la voglia e la ricerca di avere anche in Italia un ambiente multiculturale e con persone di richiamare persone dall'estero. E quello che posso dire io è sicuramente mi sembra che ci siano più italiani che si muovono verso paesi stranieri piuttosto che stranieri che vengono in Italia, però non la vedo così a senso unico la cosa, insomma. Certo, quindi anche questo luogo comune magari lo annulliamo. Beh, magari non annulliamolo completamente, ma perlomeno diamogli il giusto peso. Certo. In ogni caso, tu adesso ci hai detto che insomma poi dovrai anche andare in California per continuare le tue ricerche, esatto, no? Ma pensi che nel momento in cui dovrai stabilirti seriamente in un posto, rimarrai all'estero oppure tornerai in Italia? Questa è una bellissima domanda. Siccome non so ancora cosa voglio fare della mia vita, non so risponderti. Siccome sto cercando di fare più esperienza possibile, e diciamo che quella della California sarà l'ultima esperienza che farò prima di decidere cosa fare, se stare dentro l'università, se uscire, se andare a lavorare in azienda, se andare in un laboratorio, non lo so. Quindi non so ancora se il mio futuro sarà in Italia o all'estero. Come si è detto prima nella pausa, visto che avevo un po' di tempo da occupare, ho continuato il dottorato, che è una cosa semplicissima, no? Sì, è come, non so, noi andiamo a, non so, a prendere un aperitivo, lui va a fare un dottorato. Esattamente. E invita anche i suoi amici, venite a fare una ricerchina qua sul carbon fossile. No? E io volevo presentare il secondo pezzo, e sono i Foo Fighters con Monkey Wrench. Come mai hai scelto anche questo, Enrico? Allora, in Canada ascoltavo moltissimo delle radio, quelle in streaming, e le lasciavo andare random quando ero o a casa o anche in laboratorio, dipende. Ed è la prima volta che ho sentito questa canzone dei Foo Fighters, che conoscevo di nome per un paio di canzoni che avevo sentito in Italia, ma questa qui in particolare non l'avevo mai sentita. E adesso sono uno dei miei gruppi preferiti, posso dire, quindi insomma sono particolarmente legato a questa canzone. Andiamo ad ascoltarci quindi Foo Fighters con Monkey Wrench. Yeah. Rieccoci tornati in studio dopo i Foo Fighters e torniamo con Enrico. Allora, ci dicevi, ci anticipavi via mail che Ottawa è una città molto a misura d'uomo, che ci sono poche macchine, molti usano la bicicletta, c'è poco caos, eccetera. Allora, introduci i nostri radioascoltatori alla vita quotidiana a Ottawa e magari anche alla vita notturna. Ok, allora, Ottawa è la capitale del Canada, però diciamo è una città che è relativamente piccola, mi pare che abbia poco più di 1 milione di abitanti, e rispetto alle due città più vicine, grandi, che sono Toronto e Montreal, che hanno 3-4 milioni di abitanti, è una città, chiamiamola piccola, però è comunque, chiaramente si trova tutto, e la cosa che mi ha colpito di più è che c'è un rispetto incredibile per la gente a piedi e in bicicletta. E difatti io chiaramente giravo in bicicletta, avevo una bicicletta lì, e le macchine si fermano sempre, lasciano passare, è una cosa, veramente un rispetto incredibile. Poi è una città che è estremamente verde, ci sono parchi tutto intorno, che, cioè, tutto il Canada è molto molto verde, perché chiaramente è enorme, sono spazi enormi e non hanno i problemi di impaccamento delle città come c'è chiaramente in Italia o in Europa in generale. E allora, descrivendola un pelino, diciamo è divisa a metà, anzi non proprio a metà, ma è tagliata da un fiume che segna anche il confine fra Ontario e Quebec. La parte 90% della città è in Ontario, che è la parte inglese, giusto? Che è la parte, sì, è la parte anglofona, però tutta la buona parte dell'Ontario parlano anche il francese, mentre il Quebec sarebbe la parte francofona, ma chiaramente sono entrambi bilingue. E la parte in Quebec si chiama Hull o Gatineau e essenzialmente contiene solo edifici governativi, non c'è granché. Tutta la parte, il centro della città, i quartieri, quelli un po' più vivi, sono nella parte in Ontario, ed era quella dove vivevo io, dove c'era anche il laboratorio. Diciamo che il punto principale della città, il centro, è il Parliament Hill, dove c'è la collina dove c'è il Parlamento, e dal Parlamento al fiume c'è un immenso parco con tutta una pista ciclabile che costeggia il fiume. Infatti l'ho fatta più volte, gli amici avevo trovato lì ed è veramente un bel giro. E poi l'altro punto nevralgico della città si chiama il Byward Market. Praticamente è un blocco di strade, diciamo di, cioè, 5x5 strade, un quadratone in cui di giorno fanno un mercato di frutta, verdura, vestiti, eccetera, e di notte invece contiene l'80% dei locali. Quindi ma sono gli stessi locali che di giorno contengono la merce? E No, cioè è un mercato di, chiamiamole, bancarelle, e poi ci sono i negozi di vestiti che hanno la parte esterna durante il giorno, ma poi di sera ci sono ristoranti, pub, clubs, tutte queste cose qua. Quindi non è assolutamente dispersiva come città, se uno vuole uscire la sera prende e va lì. Dopo c'è un altro punto della città che era un po' più a, mi pare, est, che è lungo Elgin Street, dove sono altri locali, però il grosso era in questo quadratone chiamato Market. E per quello dicevo che è molto a misura d'uomo, perché rispetto a una città come può essere, che so, New York, dove sono centinaia e centinaia di strade, di locali persi in giro per tutta Manhattan e oltre, lì la gente esce, va lì, trova tutta la città, e quindi è molto, non saprei dire, è un posto, un bel posto dove viverci. Magari non come vacanza può risultare un pelo deludente, perché la città non offre così tanto come uno si aspetta durante una settimana di vacanza, però proprio per viverci è una città secondo me ottima, perché c'è tutto, c'è divertimento, c'è vita, si può fare qualsiasi cosa, ma non è caotica, non è nervosa, insomma si vive bene. Quindi i suoi punti di riferimento fissi, diciamo, li riconosci abbastanza presto, no? Ti ambienti in fretta, sì, mi sembra, sì, di, sì, capire. Sì, sì. No, nel giro di 2 giorni sai già dove sono le cose, assolutamente. Poi, Enrico, sì. Una domanda, forse non ho colto bene io, ma la lingua che parlano, perché tu dicevi che parlano sia inglese che francese, ma più o meno quando devono parlarsi tra di loro? Allora, essenzialmente è inglese perché l'Ontario è la regione in cui si parla inglese, e essendo proprio al confine col Quebec, il Quebec sarebbe la regione del Canada in cui si parla francese, diciamo che al confine si parlano entrambe le lingue, nel senso le persone sanno parlare entrambe le lingue, però la lingua corrente è l'inglese, e anche in Quebec sta diventando essenzialmente l'inglese la lingua. Se vai nei negozi, in ufficio a parlare, si parla inglese, e in laboratorio invece si parla solo e unicamente inglese, perché essendo un ambiente dove ci sono persone da tutto il mondo, il punto di incrocio comune come lingua è l'inglese. E quindi Enrico, poi ci sono anche tutti questi parchi, questo verde è sfruttato e utilizzato dai canadesi oppure? Assolutamente, nel senso che in fine settimana, i periodi di festa, eccetera, la gente si riversa letteralmente nei parchi. Quindi ci sono attrezzati con posti per fare barbecue, con panche, tavoli, ci sono campetti per giocare a basket, pallavolo, piste di pattinaggio, eccetera. Quindi la gente proprio ama andare la vita all'aria aperta, quindi ama andare nei parchi, si trovano sia i gruppi di amici che fanno la giornata così con i frisbee, col pallone, sia le famiglie con i bambini, e anche anziani, tranquilli, proprio la gente piace andare nei parchi e stare all'aria aperta. Una città insomma proprio da viversela, da godersela all'aperto, se non altro nella stagione estiva. Quindi. Esatto. Quindi io andrei con il prossimo pezzo, ci spiegherai al rientro in studio il perché l'hai scelto, e andiamo con Pour Some Sugar On Me. We'll be right back. E questi erano i Def Leppard. Enrico, dici un po' come mai li hai scelti. Allora, una sera sono andato in un locale, sempre nel Bywall Market, il posto che vi dicevo prima, dove si concentrano tutti i locali, e era una specie di club, discoteca, e mettevano musica, diciamo, commerciale. Alle 2:10, quindi 10 minuti prima della chiusura di questo locale, hanno messo questa canzone che era l'unica che io conoscevo di tutta la serata. E la gente è letteralmente impazzita, nel senso che era, ho scoperto che è quella che mettevano ogni sera prima della chiusura. Praticamente la gente prende e sale in piedi, sui tavoli, sul bancone del bar, i camerieri salgono sul bancone del bar, smettono di servire da bere per 5 minuti e tutti si mettono a ballare su, cioè in piedi, solo su questo pezzo. Poi finita la canzone, tutti scendono tranquillamente, ma senza bisogno della security che porta giù proprio. Tutti scendono perché era 5 minuti di follia, mettono sull'ultima canzone della serata e poi chiudono. Quindi tu gli hai detto ok, sono a casa. Esatto, sì, è stato il momento clou della serata per me. Altri locali, detto che in questa zona del mercato, insomma, ce ne sono più di uno. Esatto, allora ce ne sono tantissimi, adesso è inutile dire i nomi di tutti. Che insomma ti hanno colpito di più, insomma. C'era un pub, si chiama Heart and Crown, quindi cuore e corona, e che era un metà strada fra un pub e una discoteca. La cosa bella di questi posti è che se tu vai nei pub c'è sempre musica dal vivo e gruppetti locali che fanno canzoni loro o anche cover eccetera hanno un sacco di spazio, ma a differenza di quanto poi succede magari qua in Italia. E soprattutto è abbastanza distribuito durante la serata, quindi magari il gruppo suona mezz'ora, poi fanno mezz'ora di DJ set, poi il gruppo torna, fa un altri tre quarti d'ora e poi fanno musica. E quindi è una serata abbastanza dinamica, quindi la gente non deve... Scusa Enrico, una domanda, sì. Non c'è il gruppo che fa cover di Vasco Rossi, vero? No, il gruppo che fa cover di Vasco non c'è. Bene, questo è già un buon motivo per andare. E quindi durante la serata la gente, diciamo, non si annoia, nel senso, vuol vedersi mezz'oretta il gruppo che suona, se lo guarda, poi quando c'è il DJ set va fuori, si beve una birra, fa due chiacchiere, eccetera, quindi è una serata dinamica e non abbastanza inquadrata come magari spesso succede nei locali qua in Italia. Infatti è valida come alternativa quella di alternare il DJ set, così magari, insomma, puoi seguire questo o l'altro. Sì, diciamo che in qualche locale c'era anche il gruppo fisso, nel senso il venerdì sera in quel locale suona sempre quel gruppo lì, almeno per la stagione, e quindi la gente sì, magari gli fa un contrattino per la stagione, sanno che devono suonare un'ora e mezza durante la serata a slot di mezz'ora l'uno, e no, alla fine è un bel modo per fare la serata. E tra l'altro Ottawa ha una popolazione molto giovane, mi sembra, no? Cioè leggevo che tipo l'età media è sui 37 anni, ce ne sei accorto? Si vede questa cosa? Beh, sinceramente non ho fatto molto, molto caso a questa cosa. Diciamo che vivendo in una casa condivisa con ragazzi, frequentando al di fuori del laboratorio zone giovani, sì, posso dire che la gente, però non posso dire se... Adesso se l'età media è più alta o più bassa, insomma, non mi sono reso conto di questo. Mm-hmm. Certo, nel tuo ambiente chiaramente c'era molti giovani, però perché frequentavi un ambiente. Esatto. Chiaramente. Lorenzo, tu ci sei ancora? Sei scomparso? Sì, io vi sto seguendo, però ho varie vicissitudini audio che a volte mi squassano le vostre discussioni. Stai ancora seguendo la strategia di lanciare delle frasi e dei commenti buoni un po' per ogni argomento? Esatto, tipo un certamente ogni tanto, un beh sì. Infatti, quello puoi darlo anche con 10 minuti di ritardo, ma ci sta sempre bene. Esatto. Prova a lanciare un pezzo, chissà quando ci giungerà la tua voce. Allora, io ho scelto un pezzo che mi sembrava, tra l'altro, abbastanza coerente con le scelte di Enrico, perché, vabbè, intanto sono un gruppo canadese, sono i Rush, sono un gruppo importantissimo per il progressive e per il rock in generale, forse uno dei gruppi più famosi che il Canada ha esportato nel mondo. E il pezzo è Tom Sawyer ed è appunto un pezzo un po' progressive, un po' hard rock, ecco. Out the days events, the river. snowboarding Ottawa, e adesso però ci spostiamo un attimo dalla città e andiamo a farci accompagnare da Enrico nei suoi viaggi in Canada, in cui è stato anche in quelle che sono in realtà le due città più grandi e più importanti forse anche da un certo punto di vista del Canada, che sono Montreal e Toronto. Esatto. Tu Enrico ci sei andato e ci puoi raccontare un attimo come è andata? Allora, cominciamo da Toronto. C'è anche un aneddoto che in aeroporto ho trovato Geddy Lee, che è il cantante dei Rush, quindi era abbastanza appropriata come scelta delle canzoni. Quindi io ho scelto a caso, ma ho beccato. C'hai beccato. No, alla fine allora, Toronto è una città che ricorda molto di più una città nordamericana, quindi tanti grattacieli, abbastanza caotica, a differenza appunto di Ottawa, che non ha palazzi molto alti, è abbastanza più aperta, distesa come città. È anche una città, Toronto, un po' più diciamo orientata al business, quindi tantissima gente in completo che corre nervosa con la valigetta, computer, tutti col palmare a guardarsi le email, quindi abbastanza diciamo, non dico tipo New York, ma insomma siamo capiti un po' come tipo di città. Sì, ecco, insomma, città del comunque resta il fatto che l'impronta canadese del rispetto del verde in misura un po' minore, ma c'è comunque, quindi anche questa è una città molto bella secondo me dove viverci. Io ci sono stato per 4 giorni, quindi non posso dire troppo in dettaglio, però la cosa bellissima è che è su una baia e c'è un aeroporto piccolissimo di una compagnia low cost che è proprio all'interno di questa baia. Quindi una compagnia che opera solo in Canada? E Canada e nord degli Stati Uniti. Infatti sono andato anche a New York con questa compagnia. Che tra l'altro io sapevo che la Ryanair, sì, ha un po' copiato il modello delle compagnie low cost degli Stati Uniti e del Canada, che erano già che appunto avevano dei modelli economici e di, diciamo, gestione tipo Ryanair già da molto prima, o sbaglio? Oddio, questo sinceramente non saprei. Posso dire che chiaramente, essendo compagnie low cost, il prezzo del biglietto è più basso, però chiaramente i servizi essenziali li paghi, quindi se viaggi senza bagaglio va bene, col bagaglio paghi il supplemento, insomma tipo Ryanair, quindi penso che l'idea di base sia la stessa. No, c'è da dire che questo aeroporto mi ha stupito molto perché era un'immensa sala con internet gratuito, c'erano tutti gli iMac, quelli con lo schermo da cosa sono 24 pollici, a disposizione dei clienti. Tutte c'erano poltrone stracomode, cibo e bibite gratis. Si fondesse la voce qui in Italia, avresti. Ma io sono arrivato così, atterri e sei a un ponte dal centro città. Quindi tu fai il ponte, sono 3 minuti e sei in centro città. E a differenza dell'aeroporto principale di Toronto, che è 30 km fuori. Ed è servito solo e unicamente da questa compagnia. E no, quindi a parte questo aneddoto. E poi da lì, chiaramente, una volta che ero a Toronto, sono andato anche a vedermi le cascate del Niagara, che sono lì vicino, quindi un spettacolo incredibile. Chiaramente sono le immagini delle cascatone sono ben note a tutti. E poi sono stato anche a Montreal, e Montreal invece mi ha un po' deluso. Come mai? Nel senso che viene considerata la Parigi d'oltreoceano, almeno così ho letto su internet, e in realtà è, secondo me, un immenso falso. Sì, tipo la Venezia del nord di Amsterdam, credo, e poi vai lì e non ci trovi niente. Questi paragoni sono un po'... No, ma il fatto è che comunque tutto il Canada è recentissimo, cioè ha 2 secoli di vita, quindi non... a un certo punto tu cammini lungo una strada di Montreal, cominci a entrare nel quartiere antico e di colpo cambiano tutti i cartelli delle strade, i segnali stradali diventano scritti in tipo in simil gotico, eccetera. Di colpo non ci sono più palazzoni, ma tutte case basse con un vago sentore di, non dico rinascimento, ma quasi, ed è tutto finto. Pazzesco. Una sorta di grande outlet. Chiamiamolo così. Poi magari ci sono delle parti che sono molto belle, eccetera. Però insomma mi ha lasciato questo senso di falsità. Un po' finto, un po' forzato. Esatto. Poi c'è da dire che è la capitale del divertimento. Quindi lì, come nightlife, c'è di tutto e di più. E in Quebec gli orari sono di chiusura dei locali sono più avanti, cioè le 3 alle 4 di mattina rispetto all'Ontario, dove chiudono tutti alle 2. E quindi so che Montreal è la capitale del divertimento di quella parte del Canada. Però io sono rimasto un po' così. In più mi hanno anche rubato l'iPod, quindi insomma quindi sono proprio un po' da cancellare. Quindi insomma, traendo un po' un succo da quello che hai detto, a Toronto andateci per mangiare gratis in aeroporto, okay, giusto? E a Montreal invece non andateci, piuttosto andate all'outlet, una cosa del genere. No? Altrimenti vi fregano l'iPod e vi fanno credere di essere a Parigi. Ecco, se mi sento un canadese mi ammazza adesso. Abbiamo molti canadesi che ascoltano la sì. Pienissimo. Mi stai attento. E alcuni li vedo già qui sotto dalla radio, quindi sarà un problema uscire. E, tu ci hai detto che hai addirittura una canzone che ti ricorda i tuoi weekend e il tuo relax, giusto? Esatto, diciamo che è la canzone che è il mio inno dell'estate, che è Dire Maker delle Zeppelin, che non c'entra niente con il repertorio classico delle Zeppelin, nel senso che è una canzone che è anche un po' reggae, se vogliamo, però è proprio una canzone da... quando l'ascolto mi metto in pace con me stesso, mi voglio di divertirmi, di relax, quindi... E quindi andiamo con i nostri 4 minuti e 21 di relax. You don't have to go. Oh, oh, oh, oh, oh. Enrico si è rilassato talmente tanto che si è anche addormentato. Rientriamo in studio Nowboarding, puntata dedicata a Ottawa, capitale del Canada. Siamo quasi in chiusura, con che argomento ci lasci, con che racconto ci lasci Enrico? Allora, vi lascio con il patriottismo canadese. Olè. Allora, io sono stato lì d'estate e ho avuto modo di vedere il Canada Day, che è l'equivalente dell'Independence Day americano, che in Canada è il primo di luglio. Ah, giusto, cioè poco prima del... Sì, no, mi pare che sia il giorno in cui hanno unificato le due o tre regioni in cui era composto il Canada e hanno fondato il Canada. E alla fine i canadesi sono estremamente patriottici, quindi quel giorno lì, chiaramente, è festa nazionale, i negozi sono chiusi e tutta la gente almeno per quello che ho visto io a Ottawa, tutta la gente si riversa in strada, tutti vestiti di bianco e rosso, che sono i colori della bandiera canadese. Polacca, pensavo. E c'erano... Se beccano qualcuno che non è vestito di bianco e rosso, lo prendono a padilate. Quello non lo so, io per sicurezza mi sono messo una felpa rossa. No, alla fine fanno la parata con l'esercito a cavallo, che fanno tutto lo spettacolo in un parco in cui si incrociano, fanno tutte delle evoluzioni a cavallo, eccetera. Fanno i concerti gratuiti sulla collina del Parlamento tutto il giorno, dal mezzogiorno fino a notte, spettacolo pirotecnico, eccetera. E mi ricordo che c'era questo vecchietto che avrà avuto 90 anni su una di quelle scooterini elettrici a quattro ruote, quelli proprio per anziani, ed era completamente ricoperto di bandierine, aveva perfino le ciabatte di lana con la bandiera del Canada, era tutto bianco e rosso, era una cosa fantastica. E poi trovi tutta la gente, che chiaramente è pagata dal comune o dal governo, che arrivano lì, ti danno la bandierina del Canada, l'asciugamano e il gadget di qua e il gadget di là, in modo che tutti abbiano almeno qualcosa di canadese. Giustamente il novantenne ogni anno accumula un gadget, accumula un gadget, sai quanti ne aveva. No, e quindi da quel punto di vista è bello che poi arrivi lì e sei, tra virgolette, amico di tutti, nel senso c'era la gente come me che era un po' spaesata, perché chiaramente vai lì, guardi un po' la parata, guardi questo, però non ti senti, però parli col tuo vicino che ti dice quanto importante è questo giorno per loro, che e quindi ti senti un po' canadese anche tu, diciamo, e no, questo è molto bello secondo me. Infatti molto disponibili, sei anche molto aperti, ci dicevi prima. Sì, da quel punto di vista lì è fantastico, perché ti trovi in mezzo alla strada con la cartina, perché stai cercando una strada, trovi 10 persone che si fermano, ti chiedono se hai bisogno di aiuto, dove devi andare, eccetera. Sei al pub da solo perché una sera vuoi andare a berti una birra, ti siedi al bancone e prima il barista ti fa due chiacchiere, poi quello in parte a te ti rivolge la parola e se ti chiede subito se hai voglia di parlare o no. Se tu hai voglia di parlare, sai che ti passi la serata chiacchierando con una persona che poi non vedrai mai più in tutta la tua vita, probabilmente. Cosa che qua in Italia, se ti siedi al bancone di un pub, stai là da solo. Nel senso, nessuno ti rivolge la parola. E ti chiedono anche di spostarti. Magari sì, perché gli serve lo sgabello. No, da quel punto di vista è veramente un paese dove tutti sono amici e disponibili. È un bel posto dove vivere. Sì, sicuramente. La dritta però è che ti chiedono se tu vuoi parlare. Perché mentre dicevi sì, uno viene lì e ti pare, pensavo, beh, la città da non andare mai se c'hai le palle girate. Cioè, perché quel giorno che non vuoi parlare con nessuno arrivano, però... No, vengono lì, fai due o tre battute. Poi magari, se io sono molto timido di mio, quindi questo campo forse aveva visto che ero un po' restio a parlare, ma in realtà era forse timidezza, e mi ha chiesto, ma vuoi che parliamo? Per fissare la solito. No, mi fa ben piacere compagnia, e da quel momento abbiamo cominciato a chiacchierare. Fantastico. Quindi insomma, non ti rompono le scatole, se questo volevi dire. Se è la giornata no, ti resta una giornata no. Esatto. Com'è la tua giornata, Lorenzo? La mia giornata in questo momento è molto piovosa, perché c'è un rumore di fondo pazzesco. Beh, però siamo in tema di cascate, Niagara, cose, quindi anche questo è azzeccato. Lorenzo, ci dobbiamo salutare, io e te, poi invece con Enrico rimarremo qui, andremo a berci qualcosa, ma tu insomma... Ecco, farete un Canada Day anche voi. Noi siamo già vestiti di bianco e rosso comunque. Ecco, no, allora niente, io Enrico ti saluto a distanza e ti auguro un in bocca al lupo anche per la tua futura esperienza di ricerca in California. Grazie, e anche se avete bisogno... fra un po'. Ci salutiamo con l'ultimo pezzo che tu hai scelto, che è un pezzo dei Kiss, Liquid Up. Come mai l'hai scelto? Ah, boh, perché sono. Non dico che sono cresciuto, ma comunque i Kiss sono dei primi gruppi che ho ascoltato. E quando ero lì in Canada c'era un festival a Ottawa e hanno suonato lì, e quindi sono andato a vederli. E insomma, mi sembrava giusto lasciarci con questa canzone. Ciao Lorenzo, bene. Ci vediamo il prossimo mercoledì. Chissà se sarai ancora qui o sarai ancora collegato. Ormai, insomma, ci stai così. Mi sono un po' offeso, sai, stavolta. Ma scusa, non ti ho avvisato e ti ho dato buca, ma ti voglio ancora bene. Speriamo. Ci sentiamo il prossimo mercoledì. Ciao Enrico, grazie mille. Ciao a tutti. Ciao.